Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti quanti i radioascoltatori, sapete, mi avete riconosciuto dalla mia voce inconfondibile, sono il vostro ex, ormai è vero, ex sindaco, ma sempre sceriffo, sceriffo più che mai, e questa sera sono io qua, sono venuto in radio e mi sono appropriato di questa trasmissione, è vero, che si intitola Storie De Noaltri, ma soprattutto Storie di me, hai capito? E sono qui con i due conduttori veri, ma che io li ho spodestati in nome della mia autorità, perché io resto sempre, sai, sul cuore della gente, eh sì, il sceriffo, è vero, sono qui. Allora, lascia che presento io la signora Gesuina Maccari, è vero, ecco, e il signor Antonio Ceccato, che sono miei ospiti stasera. Abbiamo ribaltato i ruoli, sì, ecco. Veramente, caro sindaco, lei è il nostro ospite, non siamo noi i suoi ospiti. Ma io ero abituato, sai, a comandare, sono io che dirigo il gioco. Ma qui stasera invece comandiamo noi, vero Antonio? Naturalmente. Comunque diamo una buonasera e un saluto affettuoso a tutti gli ascoltatori da parte di Cesi. E di Antonio. Allora, caro Antonio, hai visto che abbiamo qui stasera, ma ne avremo diversi ospiti qui stasera. Un personaggio, una galleria anzi di personaggi molto particolari. Appunto. Diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto che accogliamo in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo che la possibilità di ascolto in streaming e del relativo download della trasmissione. Un saluto cordiale naturalmente al nostro regista e al nostro coordinatore. E sempre bisogna salutarli perché loro sono le colonne, il nostro regista, dico sempre che è il mio angelo custode. Allora, stasera abbiamo con noi un diciamo, come si dice, un po' polivalente, poliedrico, un personaggio poliedrico, è il professor Vinicio Corrent. Ecco. Corrent, allora diamo la buonasera. Buonasera Vinicio. Buonasera, Vinicio. Buonasera a voi tutti e a tutti quanti i radioascoltatori. Ben trovati, no, perché pensavo che fosse Gentilini, in realtà ero io che lo imitavo. E grazie di aver accettato il nostro invito, insomma. Quindi stasera ci terrà compagnia e penso che ci farà sorridere parecchio, vero? Certamente. Sì. Allora, certo, sai, come direbbe il mio amico, sai, sceriffo, sicuramente noi faremo ridere. Allora Antonio, allora noi leggiamo un breve curriculum del professore che ha il diploma di maturità classica presso il liceo ginnasio statale di Conegliano, laurea in lettere moderne presso l'università Ca' Foscari di Venezia, conservatorio, diploma di pianoforte presso il conservatorio statale di Trento, diploma di pianoforte jazz presso il conservatorio statale di Venezia, post-università, diploma di specializzazione all'insegnamento presso l'SSIS Università di Venezia. Pubblicazioni Ildebrando Pizzetti e La nave di Gabriele D'Annunzio, edizioni Aurelia Treviso 2011. Esperienze di lavoro, insegnante di materie letterarie e latino nei licei statali dal 95 ad oggi, pianista, cantante professionista dall'80 ad oggi, in numerosi piano bar del nord Italia, nel 95 all'Hotel Sheraton, all'Hotel Holiday Inn di Harare, Zimbabwe e di Cape Town, Sudafrica, dal 98 al 2003 pianista all'Hotel Carlton Executive e Hotel Bauer di Venezia, insegnante di canto moderno a tutt'oggi presso il Liceo Musicale Manzato di Treviso, officine per lo spettacolo di Vittorio Veneto, compositore ed interprete di parecchie musiche, canzoni moderne e testi satirici trasmessi nel corso dei seguenti programmi televisivi e radiofonici: Le pillole di Vinicio, in onda su emittente televisiva Eden TV nel 2004, Tequila, in onda su Radio Sorriso dal 2006, Festa Grande, in onda su Radio Asolo e ospite nel 2011 a Canale Italia. varie rappresentazioni in rassegne teatrali degli spettacoli satirico-musicali Questo Magico Nord-Est e Pasta e Fasioi, per restare nel solco delle tradizioni. Bene, ma qui abbiamo veramente un compendio di tradizioni. Mamma mia. Non mi ricordo di aver fatto tutte quante queste cose. Non me le ricordo neanche io. Ho dovuto scrivermele perché lei mi ricordi, c'è un curriculum. Perfetto. Eppure ci sono. Meno male, Antonio, c'erano tante di quelle parole straniere che scherzate stasera. Vabbè, allora incominciamo subito. Come avete sentito, è anche un grande musicista il nostro professor Vinicio. Cominciamo subito, è anche compositore, con una sua canzone. Antonio, cosa? Pasta e Fasioi. Pasta e Fasioi, che è una canzone interamente in dialetto veneto. E chi la canta? Sempre lei? E la canto io, sì. Benissimo. Ci ascoltiamo Pasta e Fasioi, cantata dal nostro professor Vinicio. La canto e la eseguo. Benissimo. Gira intorno al mondo, o sembrano altri limoni che andiamo sempre torno. Mi tento di spiegarmi cosa che sega vuo, ma par che mi abbia messo pevare sul culo. E giro il giro tondo, non casca più il mondo, ma quando che se sera me casca e vai per terra. Corremo e paghemo come Pantaleon, e invece di magnarsi guardemo televisione. Ti schizzi un bottone se cucina il minestrone, e su pubblicità riscaldemo il baccaià. Ma in mezzo a sto tormento mi cerco il mio momento, che smono che sta pressa, mi c'avo una soppressa. Mi me piace sta senta e magna, senza che il botto se ferme. Ormai se gade sfa, se tutto fatturà, compreso un calmagnar. Prodotti sul GI, scremai e super lights, ma dove sei indai, cibi naturali. I vuol che se compremo soltanto porcheria, pa farmi diventare poi assi in batteria. E latte di mattina, non siede a contadina, ti trovi in bustina, ma sa la malta fina. Una volta mi ricordo il frago e c'era c'è, adesso sei mastè come tete dei porsè. Ti emagni di cartone o ti ciuci il silicone, se la stessa soluzione ti te senti un gran coglione. Piace sta senta e magna, senza che il bocco se ferme. Di nuovo in studio. Ecco, allora sì, questa canzone che è Pasta di Fasioi, bisogna spiegarla un po', perché nasce dall'ispirazione di un personaggio che facevo io, che faccio ancora io attualmente in teatro, che è Antoine Sardéon. Chi è Antoine Sardéon? Antoine Sardéon è un cuoco meridionale che è tanti anni che è venuto su al nord, il quale cosa fa? Ma lo faccio dire con la parola, perché Tony Sardéon parla più o meno così. Buonasera a tutti, avete sentito la canzone che ho fatto, che è sentito appunto Pasta e Fasioi. La canzone l'ha fatta mi che mi chiama Antonio, come il signor Ceccato. No, amico, ho cambiato il mio nome, mi faccio chiamare Antonio. Antoine o anche Tony, per la gente che... E Sardellone, ma in realtà il cognome mio sarebbe Sardellone, Sardellone, perché esiste cosa che mi pare è Gera de Beri, no? E mi mare a Zede Rovigo. Allora praticamente mi sono 30 anni che sono a Noggia. E mi sento, da Noggia, no? Tanto che è vero che anche la tessera, ma questo non si può dire. A casa, quella stata la tessera, il simbolo, là, quello verde. E allora mi sono da Noggia veramente al 100%. Però ancora oggi, qualche d'uno mi dice, ma Tony, qualche volta raramente, ti ha un accento che sei un po' meridionale, sei un po' troppo. Allora mi arrabbia, no? perché mi ho fatto tutto qua. Allora, cosa che ho fatto? Mi ho trasformato l'osteria, mi pare che aveva una osteriassa qua, che era come Nassi che giocava a carte, e mi ho trasformato in un grande ristorante, no? E che ha fatto la cugina francese, e che ha messo nome a questo ristorante Chez Antoine. Che vuol dire in francese a casa di Antonio, che sarebbe, esatto, sempre mio. Ma siccome che si scrive Ketz Antonio, allora quando viene su quelli da Beri, che dice, rimangono interdetti. E dice ma che cazzo ti fa qua, Antonio? Hai capito? Questa è... Allora, mica fatto praticamente la ricetta. E come, scusate, vuoi sentire una ricetta mia? Sì, dai. Per esempio, cosa vuol dire che ti dice? Ti faccio, per esempio, i bigo in salsa. Allora, sì. Cosa dici bigo in salsa? È un piatto tipico a Veneto, no? Tipicamente, adesso che vuoi che si mangia la vigilia, no? Alla vigilia dei grandi. Allora, però, cosa non dà quel costo del pugliese? Allora, per fare i bigoli in salsa, bisogna che te fate rosolare questi bigoli, no? Fin quando che noi abbia c'è un colore doretto. Se dopo 10 minuti doretto, vabbè, sì, perché se non accende, sì, no, se dagli altri ascoltatori dicendo, cos'è questo doretto, pugliese, perché ogni tanto, ma raramente, mi viene fuori qualche termine un po' pugliese, ma mi sarebbe bene dal 100%, rascia piave, anche mass. Allora, se dopo 10 minuti che vuoi fare rosolare, no, questi bigui e non sei ancora doretto, allora vuol dire che vi siete dimenticati di impissare fuoco, no? Assicurate di impissare fuoco. Allora, su questi bigui versatevi un goccio d'acqua e continuate la cottura a fiamma bassa. Bisogna mescolare abbastanza spesso, bisogna mescolare anche per ore, insomma. Dopo che se qualche ora che mescoli con questo mestolo in bar, no, mi pare essere un po' un insemenio, insomma, che gira questo mestolo in bar. Se, insomma, praticamente se non vuole, se stufa di mescolare, non importa, fa niente. A un certo punto, quando che le cipolle sono pronte, bisogna prendere le acciughe. Però le acciughe, gara essere quelle buone, e sopra, bisogna dire che queste acciughe fosse pescate a Taranto, perché a Taranto il gusto è più buono. E le migliori acciughe, che se quelle pescate a Taranto, è il marchio Ilva Mare, capito? Ilva Mare. Queste sono le migliori acciughe, perché, sapete perché? Perché non serve neanche lavarle. Non le serve neanche lavarle. Bisogna lasciare rosolare il tutto, le acciughe e le cipolle, fin quando che non si saranno sciolte. Se scioglie praticamente le cipolle e le acciughe, e se le, praticamente molto spesso, se le, proprio quelle del Taranto, originali dell'Ilva Mare, si scioglie anche a pignata. Alla fine che avete fatto questa operazione, dovete versare i bigui su un vassoio. Li ricoprite con 3 o 4 strati, è qua che si è aggiunta. Ricoprire con cosa? Con 3 o 4 strati di peperoncino. Ah, oh, che miseria! Mezzo chilo di peperoncino piccante. Madonna! Quello tipo di cayenne, che asse con la bocca aperta. Ecco. Dopodiché assaggiate. Scusami, qualche volta mi scappa ancora qualche termine. Ma comunque, se siete ancora vivi, no, potete accompagnare il tutto con un buon bicchiere de Merlot. oppure del Reciot, delle Reciot, ecco, che, perché essendo queste qua serie Big in salsa, ma potremmo anche chiamare le orecchiette in salsa, no? Allora con le orecchiette che ho Reciot, no? Vabbè, guarda, se mi vedo quando lui pensa che vai, perché va tutto in riba, no? Certo. No, perché essendo in verde qualche un po' pensa che la Reciot sia una roba, no, no, c'entra niente, non c'entra niente, no, ecco. No. Vabbè, insomma, se volete che avete un Reciot, meglio. Se non lo avete, no, potete praticamente fare anche col Merlot, ma che sarebbe il Merlot, no? Comunque non importa. Merlot, Merlot. Se non avete neanche il Merlot, non importa, fa niente. Bevetevi l'acqua del rubinetto. Ah. Però attenzione, l'acqua del rubinetto qualche volta possa avere da tappo. Tappo. Allora, se l'acqua del rubinetto la sa da tappo, cosa che dovete fare? Dovete chiamare il vostro idraulico e che di sé che de vin non se ne intende un bel tubo, tu capisci, l'idraulico col tubo. E questo era Tony Sardeo. Questo questa le ha ispirato la canzone, questa mi ha ispirato la canzone, no, perché io per tanti anni ho lavorato negli alberghi, no, negli hotel così, e molto spesso c'erano in sintonia con gli chef sì, insomma, e quindi questi chef che preparavano questi piatti, li elaboravano. Guarda, c'era appunto uno chef che era appunto di origine meridionale, però parlava appunto più o meno così, e mi ha ispirato, ho detto lo faccio, faccio un personaggio teatrale che poi ha un grande successo, perché mi dicono ma sai, dice, che il mio vicino è lo stesso, il mio vicino parla, dice, è meridionale, però ormai, dice, ha tradito questo lì, e quindi viene fuori questo accento che si è misto, no? Quindi capito? Lei in questi ristoranti magari faceva il pianista per il bar, sì? È il pianista bar, un piccolo inciso, tutte le canzoni che ascolteremo oggi sono opera del nostro ospite. Grazie. Sì. Ecco. È importante ribadirlo anche perché. Esatto. Il professor mi fa un po' paura. Vinicio. Separiamo le due identità. Perfetto. Vediamo che ho visto che ha composto anche jazz. Sì, no, diciamo che mi sono un po'. No, composto jazz no, però l'ho studiato. Insomma, l'ho studiato. Era un jazz, una musica meravigliosa. Stupenda, bellissima. Io sono stato un po' un cultore, un grande ascoltatore, insomma, del jazz. Come musicista sarei più un orecchiante del jazz. Sì, sì, sì, sì. Io sarei più un musicista pop, insomma. Pop. E poi ultimamente vedo che queste canzoni in lingua veneta si prestano molto. La lingua veneta si presta molto e vedo che c'è un bel momento. Vedo anche gruppi. Esatto, che momento identitario, probabilmente proprio per il fatto di questa disgregazione dell'identità, che c'è questa ricerca delle radici, anche dal punto di vista musicale. La prossima non è veneta, vero? La prossima canzone? No, però c'entra, esatto, c'entra. Facciamo un magico nord-est che è metà italiana e metà veneta. Allora, ha trovato le sue radici anche Antoine Sardeau, insomma. Assolutamente, per la miseria. Allora, facciamoci, ascoltiamo Magico Nord-est? Ascoltiamo Magico, dobbiamo spiegare che questa è stata la sigla il mio spettacolo teatrale che avevo fatto agli anni in cui il nord-est era veramente magico, perché oggi qualcuno si vede ormai tragico, insomma. No, ecco, è opportuno, credo, che diamo proprio il contorno della situazione e poi ascoltiamo la canzone, magari qualche minuto di approfondimento. Allora, ho fatto questo spettacolo teatrale, no, in cui descrivevo questo magico, eravamo proprio al massimo, insomma, cioè, queste aziende, chiunque partiva, che poi i veneti hanno questa grande inventiva, una cosa stupenda, no? Insomma, loro capiscono che per esempio gli squimesi hanno bisogno della vite, no, per il fuoco, lo spirito dei metal mezzadri di una volta, esatto. È una manualità spaventosa, esattamente. Allora lì praticamente questi partivano, facevano e veniva fuori delle figure, insomma, come quella poi dirò io di Nando Bortoin. No, che Nando Bortoin è un imprenditore tipico del Veneto, di Radicchio Trevigiano, doc. Nando Bortoin, insomma, siccome lui va nei campi, no? Lui va nei campi, allora l'agricoltura è bellissima perché ti lascia il tempo di pensare, no? Oltre ad essere immersi nel verde, così, allora questo Nando Bortoin pensa praticamente e fa delle opinioni, e quindi da Nando Bortoin viene fuori Opinionando. Opinionando. Che bello. Opinionando. È un breve inciso prima della canzone, e siamo diciamo alla vigilia, anzi ci siamo già dentro, di una nuova rivoluzione industriale ed artigianale con l'artigiano 3.0, che è quello delle stampanti in 3D. E noi siamo all'avanguardia. Alla fornace di Asolo ieri, l'altro giorno, non mi ricordo, qualche giorno fa, c'è stata una workshop, una conferenza, dove si parlava espressamente di questo. E ci sono delle start-up e compagnie che lavorano e stanno facendo cose egregie, delle turbine per aerei, cose del genere, già prodotte con la stampante 3D. Sono cose straordinarie che sono anche poco conosciute, eccetera. Però per dire che questo spirito di un tempo sta ritornando in altra veste, ecco. E quindi una, come posso dire, un anelito, una voce di speranza. Speriamo, ecco, appunto. Prego, professore, ecco, prego Vinicio, anzi. No, infatti sono d'accordissimo con questa capacità di inventarsi continuamente, ecco, e poi di fare un po' tutto, insomma, perché questo, l'imprenditore si caratterizza per questo, lui fa tutto, lui, dai conti alla promozione, tutto. Questa è parte e va, non bisogna in Veneto è tutto fare, e quindi questo Nando Bortolin, diciamo, che è il rappresenta proprio il... Sì, oggi magari siamo, a parte queste nuove prospettive, siamo un po' in crisi, ma insomma dai, auspichiamo con questa canzone anche un ritorno ai fasti. Ai fasti. E questa canzone tempo, è un po' in veneto e un po' in italiano o tutto in italiano? No, è mezza in veneto e mezza in italiano. Va bene, insomma, sì. Allora l'ascoltiamo. L'ascoltiamo, via. Signori e signori veri, miliardari e senza skate, artassai e senza tasse, corre tutti e noi se ferma mai. Ma dove vai? Beduini qua capanna, mano altri il capanno, cosa che sarà mai dentro, non mi importa, basta lavorare sempre di più. Come è nato non si sa, forse una mentalità, ma un nome ce l'ha già, sì, Magico Nord-Est, Magico Nord-Est, Magico Nord-Est, Magico Nord-Est. Remenando costa pressa, zonta in cioda, spacca e mena dai, me so spacca. Sarà strano ma se è vero che un paese del contado se trasforma tutto un colpo su una grande zona industriale dove son capitano. Come è nato non si sa, forse una mentalità, c'era già, sì, Magico Nord-Est, Magico Nord-Est, Magico Nord-Est, Magico Nord-Est. Ah, ciao, ora che sono mi sono qua, sono Nando Bortolin, sì, ora che sta canzone qua, ho scritto mi, Nando Bortolin, imprenditore di radicchio trevigiano doc, da Maserata sul Piave, ciao, ora che mi, alle 5 di mattina, sono sul campo, vero, non scherziamo, mi farò anche 15 ore al giorno di lavoro, ma quando che è sera, porto carro e skate qua a Carioa, non capisco, che sia a Carioa, che mi ha regalato a mio zio, che ha fatto una vita in Svizzera e mi ha regalato a Carioa lui, e gli ha detto, ma era che sei mio cugino, che lavora in banca, tutto quanto, che lui, tutto fighetto, ma dice, ma Nando, dice, Iskei, perché non ti porti in banca? In banca, i porti in banca, ma non si sa che una volta in televisione era i maghi, il mago Silvan, te lo ricordi tu, ciao, Antonio, te lo ricordi Silvan che diceva, è quello che faceva sparire la femmina, cioè, ti senti mai domandati i maghi al giorno d'oggi dove chi sei? I suoi banche e i fa sparire, comunque guarda che ho fatto una fatica arrivare fin qua, ho fatto una fatica. Cosa hai fatto? Io ho fatto tutta quanta una rotonda salto che altra sera sono arrivato a casa a Maserata, ciao, col scuro mi sono perso, non ero più buono a trovarmi, e ho detto, ma tutte ste rotonde, insomma, ho detto, ma servono per far scorrere, no, sì, il traffico. Sì, l'unica roba mi sono perso, insomma, sono andato in ferie su in Germania, perché ho anche la gente che compra i radici, è vero, sono andato su i radici, non mi sono perso neanche, non ho sbagliato neanche la strada, e qua insomma così. Però allora che c'è stato che mio mio fiol che le va a scuola, e ha avuto su a studiare, e mi ha detto, ma cosa occorre che ti studi? che se mi ha detto quattro terze elementare gente che ha tre lauree che viene a lavorare lì. E io ho detto, ma io papà, ho detto, voglio diventare commercialista, detto, stato chi che i commercialisti? Dice quelli che ti fa pagare tasse, ho detto, anche nel mio paese, che ne era tre, il fallito di quanti? Scusi, signor Bortolini, che cosa ne pensa di tutto questo traffico, di tutte queste rotonde, di questo put? Appunto, no, che ti ho detto, che là praticamente, io ho detto, gira il traffico, l'unica roba che gira e se e basta. Allora torniamo, meglio dai, in campagna quanto ben ci stai in campagna, la campagna è meravigliosa, va bene, teniamo botta, avanti sempre. Torniamo al nostro Vinicio. Sì. Come vi dice, allora proprio devo passare da un personaggio all'altro. Allora, così ci parla un pochino della sua carriera, così musicale prima di tutto. Beh sì, la musica per me è stata importantissima, insomma, perché è sempre stata da piccolo è stato a suonare, anche se io nascerei come imitatore. La prima cosa che da piccolo, la prima cosa che ho fatto è l'imitazione. Lei preferisce addirittura più l'imitazione della musica? Ma sì, l'imitazione è una cosa, anche perché l'imitatore ha questo di bello, che basta che faccia un personaggio, lo fa bene e poi ha il futuro assicurato. Rendita mediatica. E comunque anche la musica, diciamo, esatto. Sì, anche la musica comunque è un'imitazione, cioè si impara per imitare, soprattutto la musica moderna dove non hai regole scritte, non hai cose scritte, la fai imitando gli altri, insomma. E quindi la musica a me ha dato moltissimo, perché soprattutto ha dato da lavorare, anche io tutto il precariato della scuola l'ho fatto fortunatamente suonando, anche l'università stessa, suonando lo sempre stesso sempre. A quegli anni lì poi c'era il famoso il night, il piano bar, sì. Ah, sì, esatto. Era molto di moda, sì. A me piace tantissimo, ha un fascino, piano bar ha una dimensione confidenziale, sì, diciamo, proprio... anche qui a Treviso c'erano tantissimi locali e poi ogni locale aveva il pianoforte, cosa Nilo, che adesso è Nilo Blu, se non ricordo, Nilo Blu famoso. Ma anche la loggia stessa, Roberto, qui insomma, sì, c'era questo pianoforte che poi è sparito perché adesso è molto più tecnologico il discorso. Adesso c'è la pianola, queste sì, poi ci sono queste basi, queste basi che uno le scarica, queste tastiere che fanno tutto, anche l'orchestra di Sanremo, fanno anche il caffè. Esatto. Non è, diciamo che chiaramente è una, se posso dire, una banalizzazione un po', nel un senso po' sì. non si sente quella vitalità e quella, no, quella confidenza, o sbaglio? Sì. È vero, perché quando poi noi suonavamo nel piano bar eravamo un minimo in due, tre, non è che si potesse, perché appunto non avendo questi strumenti tecnologici, esatto, occorreva un minimo di un batterista, non un bassista. Non è che facesse piano bar da solo. Anche poi alla fine, poi per ragioni appunto economiche, hanno detto invece che pagarne tre ne paghiamo due, ne uno, alla fine si è ridotto molto di più, adesso mettono addirittura un computer che fa tutto lui. Però beh, sì, il fascino del piano bar e del night era il fascino del pianoforte, il fascino del pianoforte, e poi dal vivo è sempre un'altra cosa, sì, chiaramente, perché anche gli errori poi c'erano questi, perché tu poi imparavi, io ero piccolino, c'erano questi grandi, no, che avevano tanti anni più di me, insomma, e quando poi sbagliavi, questi, se sbagliavi c'era il mago che ti faceva che faceva sparire, ti davano di quelle occhiate incredibili, ma era bello, sì, anche quello. E poi le canzoni venivano preparate apparate, si facevano prove. Oggi non c'è più tempo di fare prove. Esatto. In televisione lo vediamo, infatti, sì, gli spettacoli sono scaduti in modo straordinario, esatto, da quando c'era la possibilità di creare, certo, un prodotto di qualità al, certo, prodotto di grande consumo e veloce. Così, insomma, sì, io appunto come maestri mi ricordo, insomma, Lelio Luttazzi, Franco Angusto. Io vengo da lo stesso Arbore, che dunque, bello, grandi personaggi. Questi sono i personaggi che piacciono a me, ecco, sinceramente, la verità. Quindi lei suonava quelle musiche una volta? Quelle erano d'obbligo, perché poi, insomma, era impossibile non sapere Frida, non sapere Donna sul mare. Poi sono o Gino Paoli, che sono canzoni che rimangono tuttora, no, nell'immaginario collettivo. Ma sì, esatto, ancora più belle, specialmente anche suonate col pianoforte, sono le canzoni anni 50, anni 40, che hanno quella melodia proprio che si adatta moltissimo al pianoforte, al piano bar, insomma, certo, forse lei non le conosce questo tipo di canzoni. Beh, insomma, l'ho sentite comunque, sì. Beh, non le ho vissute perché io vengo, insomma, certo. Però, certo, insomma, le abbiamo. No, ma guardi che sì, questa è una musica o piace o non piace, perché non importa che sia stata vissuta o meno, perché la musica degli anni 30, 40 non l'ho vissuta, certo, nemmeno io. Yves Montand, 50, 60. Adesso invece lei insegna, vero? Sì, ho ridotto molto la mia attività, insomma, musicale. Ha ridotto? Sì, perché insomma, anche perché gli orari, insomma, che sia perché non poi sono spariti, perché il piano bar è sparito e poi effettivamente non c'è più il gusto, insomma, di suonare. Io vedo ogni tanto che fanno delle musiche così, ma non si capisce se è autentica, certo, se non è. Certo. E quindi occorrerebbe un ritornare allo, sì, spirito di comunità che, certo, c'era un tempo, certo, si è ridotto molto, mm-hmm, insomma, anche da un punto di vista economico, perché insomma, voglio dire, una volta, in effetti, sì, si è ridotto molto, e anche perché poi gli orari che si facevano erano orari, insomma, molto tardi, non compatibili. Io avevo perso qualche esame all'università perché insomma facevo questi orari, insomma, 3-4. Invece si parlava di insegnamento, ecco, sì, l'insegnamento sarebbe interessante capire quando, diciamo, da quando è iniziato proprio l'insegnamento strutturato nel 95, mi pare di ricordare, sì, sì, ad oggi che evoluzione c'è stata, diciamo, da parte dall'altra parte della barricata e anche dalla vostra parte della barricata, così sintetizzando così. Beh, la scuola purtroppo ha avuto dei grandi cambiamenti anche un po' negativi, insomma, perché sono classi sempre più grandi, sempre più numerose, c'è un lavoro, c'è sempre, si perde un po' quell'insegnante. Io mi ricordo, insomma, lo spirito che avevo quell'insegnante, quel grande anche istrione un po', una volta era un motivatore. Adesso è più quasi un impiegato, da oltre l'autorità l'insegnante. Era specialmente, c'era il maestro elementare, c'era autorevolezza, c'era così dignità sociale, certo, diciamo. sì, ma anche grande conoscenza era un trasmettitore di letteratura. Oggi la letteratura la vedo appunto, parlo per la letteratura, certo, perché il mio, certo, la vedo un po' ridotta in pillole quasi, no? Si trova un po' in internet, un po' di qua, invece una volta te la ricostruiva, certo, ecco, questo purtroppo non hai, no, ci sono bravissimi insegnanti ancora, però è il tempo che manca, esatto. E pensare una cosa che è uscita recentemente, il 2 dicembre, un articolo sul Corriere, mi pare, che romanzi e saggi hanno una funzione non solo, diciamo, di intrattenimento, ma addirittura terapeutica. Certo. Si parte proprio di uno studio dell'Università di Göteborg in Svezia, eccetera, e di uno studio di due psicoterapeute londinesi, le quali parlano proprio di risultati ottenuti con la biblioterapia. Una cosa interessante che qui è poco conosciuta. Noi gli italiani arriviamo dopo, naturalmente, ecco, non appunto. C'è problema. Allora, bene, adesso la prossima canzone, così la spieghiamo un pochino. Che canzone è la prossima? Ah, facciamo una canzone in inglese. One of Us. Traducete per cortesia. Uno di noi. Ed è dedicata a mio figlio che ha 5 anni. Mio figlio Riccardo, che l'ho voluto fare in inglese così perché, insomma, sì, perché siamo esterofili, lo dica sinceramente, però per la verità io, come grande maestro anche di musica, Elton John, Billy Joe, quei grandi cantautori americani, ho voluto fare un omaggio un po' a loro facendo questa canzone e auspicando, insomma, così un futuro, perché purtroppo ormai i nostri ragazzi sarà difficile che rimangano qua, saranno destinati ad andare all'estero, e quindi che sia di buon auspicio. Vuole così magari spiegare un pochino il testo della canzone, perché tanti purtroppo l'inglese non lo... Non... Adesso comunque dice: qualche volta pensiamo a tanti sogni, però il sogno più bello è quello che abbiamo qui. Adesso vado un po'... Tranquillamente, non è un problema. Sì, e il più bel dono che ci ha dato, insomma, Dio per noi è questo, che di avere questo bambino, insomma, che sei uno come noi. Per noi è stato molto sentito questo, anche perché è venuto in un'età non proprio giovanissima, insomma, ormai giustamente ormai questa è la tendenza, i figli si fanno sempre più, certo. più tardi, e quindi per noi è stato un grandissimo un dono meraviglioso. Meraviglioso, benissimo, sì. Allora ascoltiamo la canzone. Sometimes we thought about a gift, but never had such a dream, so lovely, beautiful and nice, the soul that we came true. We've been waiting for a long time, wondering what you will be like, thinking that one day we'll take your hand as trees as come from heaven, a new day has just begun, and the sky there is a star that is more but shines as a song, and now that you are one of us, we see the joy you bring along. We'll live as in a magic word, when you smile and even when you cry, because you're one of us. Children run growing up, as little birds they learn to fly. What a miracle of life, falling from above. And our journey has a name, life will never be the same, surely it will be a better day. And now that you are one of us, we see the joy. All the sadness fades away. You are the joy of our life. What could we ask for more? Buonasera e benvenuti a una nuova edizione speciale di Porta a Porta, di Storie di Novalti. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo sentito la musica, però cerchiamo di riportare un po' di ordine questa sera. Ecco, prima di passare a presentare un ospite che è molto noto ai nostri ascoltatori, vi voglio far ascoltare i risultati di un sondaggio condotto come al solito dal nostro professor Mannheimer. Bene, visto che siamo in clima ormai natalizio, abbiamo pensato di chiedere agli italiani che cos'è secondo loro la felicità, in che cosa consiste la felicità. Ebbene, gli italiani, considerati da sempre un popolo un po' godereccio, un po' donnaiolo, appunto, eccetera, hanno risposto in maniera sorprendente. Bene, allora, alla domanda che cos'è la felicità secondo voi, solo l'1% ha risposto i soldi. La domanda la stessa, solo 1% ha risposto il successo, solo 1% ha risposto il potere e solo 1% ha risposto il sesso. Ecco, la maggioranza degli italiani, circa il 96% intervistato, ha risposto che la felicità, secondo loro, non è una cosa banale che si risolve con i soldi, con il potere, con il successo o con il sesso, ma che la vera felicità si può ottenere in un modo solo, possedendo contemporaneamente tutti e quattro questi requisiti. Oh, signor Vespa, ma che bella indagine che ha fatto. Hai visto, visto? Ecco. Adesso io, se, col permesso vostro, introdurrei un ospite che tempo fa era praticamente, aveva un uomo di grande potere, di successo, e che oggi non è che se la passi molto male, ma comunque non ha più quel potere che aveva una volta. Vediamo se indovinate chi è. Sì. Buonasera a tutti quanti, sono il ex ministro Giulio Tremonti, ma potete anche chiamarmi Giulio Treconti. Allora, da quando non sono più ministro dell'economia posso sparare tutte le cavolate che voglio, tanto ormai nessuno mi ascolta più. Allora, da quando mi hanno trombato, cosa ho fatto? Invece che fare delle previsioni economiche, ho fatto delle previsioni dei segni zodiacali e sono diventato il mago Treconti. Facciamo un esempio. Un esempio banale, questo è il mese del segno Sagittario, benissimo, facciamo l'oroscopo del Sagittario. Lavoro, siete esasperati in quanto non riuscite a realizzare i vostri progetti perché siete pieni di debiti. Il mago Treconti consiglia finanza creativa, createvi una tassa su voi stessi, praticamente autotassatevi, cercando naturalmente di evadere il meno possibile. Amore, buone notizie, state per conoscere la vostra anima gemella, con la quale però, proprio perché gemella, rischiate di raddoppiare i vostri debiti. Va, ultima cosa, e poi, salute, persistono i problemi allo stomaco che continua a brontolare. Treconti, per mancanza di cibo? Treconti consiglia, provate a riempirlo se siete capaci. È il carattere. E insomma, Treconti qui. Profetico proprio. Sì, venite da questo. Comunque, bravo, veramente bravo. Grazie. Come imitatore. Grazie. E facciamo qualche altro personaggio. Ma chi possiamo fare? Possiamo fare per esempio... Facciamo questo. Tonino Di Pietro. Che ci azzecca, Allora, infatti, facciamo così. Lo facciamo presentare sempre a Vespa. Allora, vediamo l'ospite di questa sera. Dopo l'onorevole Treconti, a un altro ospite che aveva avuto molto successo e potere un tempo, quando non era trombato, e che adesso praticamente è stato trombato, ma che prima di essere trombato era un politico e prima ancora un ex magistrato e poi ancora un ex poliziotto, l'onorevole Tonino Di Pietro. Buonasera a tutti quanti, sono io, sono Tonino Di Pietro. Adesso io, rappresentante dell'Italia dei Valori, i valori non ci sono più perché se ne sono mangiati i valori, mannaggia. Allora vanno trambate pure a me, io che sono stato il difensore e che ho speso la vita a combattere disonesti e corrotti, vanno pure trombato alle elezioni, vanno trombato, mannaggia. Allora cosa ho fatto? Ho detto, Tonino, tu devi ricominciare da capo. Ecco, devi tornare all'origine. E per tornare all'origine, cosa ho fatto? Ho fatto domanda per entrare in polizia un'altra volta, mannaggia. E mi hanno detto, dottor Di Pietro, data l'età, al massimo le possiamo dare un posto di nonno vigile, le possiamo dare. E mi sono trovato con la polizia a fermare, però anche da nonno vigile ho fatto una cosa interessante, dice, ha fermato il traffico per lasciare passare. Ho fermato un traffico di merendine illecite. E allora, signor Vespa, qualche altro personaggio da presentare stasera? Mamma mia, qua tutti quanti ogni volta dove vado mi dicono faccia l'imitazione di Berlusconi. Come si fa a fare? Sì, dai, volevo chiederglielo io. Ebbene, sono passato di qua anche per aprire un nuovo Club Forza Silvio. Ma vi voglio dire, raccontare un aneddoto, perché voi sapete che io sono l'uomo degli aneddoti, e l'aneddoto è che l'altro giorno con la mia nuova compagna, che si chiama la Veronica, no, quella era quella di prima, l'ultima compagna, la Pascal, ho avuto un lapsus, eravamo in elicottero e passando così sopra gli italiani, questi che adesso sono un po' in rivolta, preso da un eccesso di generosità, ho tirato fuori dal portamonete 200 euro e ho fatto un aereo e l'ho buttato fuori dall'elicottero. Al che la mia compagna mi ha detto: ma Silvio, caro, cosa fai? Anche il cagnolino Dudu si arrabbia, si è messo ad abbaiare e dice: guarda, sono stato preso da un eccesso di generosità e voglio far felice una persona. Mi ha detto: ma caro, ma se invece di 200 euro ne butti fuori due da 100, fai felici due persone. Al che, siccome nella gita c'era anche Marina mi ha detto: ma papà, se invece di un bigliettone da 200 o due da 100 ne butti fuori 4 da 50, fai felici 4 persone. E al che il pilota dell'elicottero mi ha detto: ma presidente, ma si butti fuori lei, che fa felici tutti quanti. Il solito comunista. Siamo la satira ancora bella, viva. Bella sta satira. La qua, satira bella, ancora bella. Viva. Lui ha buttato... è vero? E poi occorre sorridere. Se ne buttava fuori sì. 5 da 20, poi si è contento 5 persone. Beh, comunque, tornando al... so che... ti interessa anche di musica jazz, perlomeno l'ascolta la musica sì, jazz. Sì, l'ascolto, sì. Le piace il jazz caldo o il jazz freddo? Ma a me piace... quello di Cole Porter? Swing? O... io sì, sarei più sul tradizionale. A me piace lo swing. Sul New Orleans. Sì, New Orleans. Addirittura anche prima, nel tempo del ragtime delle origini e poi lo del stride delta, piano. Delta blues, eccetera. Esatto, sì, quello è stato un periodo bellissimo anche per la me, anche perché l'età è stata bellissima, quella degli anni dello swing. Esatto. Io sono un grandissimo estimatore della letteratura americana. Io penso che Scott Fitzgerald, con il grande Gatsby, abbia scritto le pagine più belle. Era l'età dell'oro. Purtroppo non hanno avuto la guerra come noi, quindi avevamo potuto divertirsi. Esatto. E quel swing, quel tipo di jazz. Io volevo dirle che non so, lei forse non si ricorda sicuro, negli anni 50 c'è stato un grande cantante di swing che era Natalino Otto. Natalino Otto, grande. Adesso la prossima canzone, che canzone è? Beh, io vorrei fare una canzone sempre in veneto, che è un inedito. Sì, perché queste canzoni ogni tanto circolano in giro, qualcuno degli studenti dice: ah, sai che ho sentito una sua canzone, Pasta di Fagioli. Quindi queste sono un po' sfruttate. Ma questa canzone che andiamo a presentare oggi è proprio un inedito ed è una chicca che vi voglio regalare a voi, perché non l'ho mai fatta sentire in giro. Ed è una canzone che è intitolata Iesodo. Perfetto. È dedicata a Iesodo e speriamo che diventi il tormentone. Ecco, noi diciamo che anche il professore è insegnante al liceo di Conegliano. Sì. Benissimo. Ascoltiamo Iesodo. Sì, benissimo. sana corriera di supporto. Piscine, discoteche, grattacieli, golfini o tutti skate. Animazione, zoghi ed escursioni, no Goku, no su nessuni. Pensi sul fondale, che rottura del bae. Mi sono zappentio e torno in trio. A Jesolo. E torno a Jesolo, senza dose sul balcone. A Jesolo. Ma magari è fatto più buon. A Jesolo. Che bel che sei star qua. A Jesolo. Muchacha, dove ti va? A Jesolo. Aspetta che vengo a cammin. A Jesolo. Magari arrivo in mondo lì. Eccoci qua di nuovo in studio con il nostro Vinicio. Questa canzone inedita, ha detto sì, lei, no? Inedita, sì. Ecco, in sostanza, come è saltata fuori? Che ispirazione ha avuto? Beh, è un inno a Jesolo. A Jesolo, insomma, beh, sì, questo sì. Perché noi qua a Trevisano, insomma, siamo da piccoli, si va sempre lì. Era la nostra spiaggia. Però succede che tanti adesso, che insomma hanno un po' così, anche delle certa disponibilità, hanno storto un po' il naso, dicono, ma insomma, a Jesolo, sì, vabbè, insomma, però tanta gente, le code, questo. E allora dice, io vado ai Caraibi. Allora, la storia di Jesolo è di uno che dice, il prossimo anno basta, ho risparmiato tutto l'anno, metto via, vado ai Caraibi, vado su una spiaggia, ecco, e basta Jesolo, dice, basta Jesolo, ma sta spiaggia, ecco. E allora vai ai Caraibi e li trova piscine bellissime, grattacieli, discoteche, non conosce nessuno, trova solo i pesci, vede solo i pesci sul fondale, perde tutti i soldi, perché sono costosissimi, e dice, torno a Jesolo, perché poi alla fine ripete, torno a Jesolo, magari anche in motorin, dice, no, magari in rodato, ma dice, insomma, sempre e quindi... Diciamo che è un ritorno alla sobrietà dopo l'ubriacatura consumistica. Ecco. Comunque è un bel cia-cia-cia, una bella musica. Sì, molto estiva. Penso che effettivamente, come ha detto lei, che potrebbe essere il prossimo tormentone, sì, il tormentone della prossima estate. E spero, adesso cioè, lo proporremo. Auspicabilmente. Lo spieghiamo. Lei... diceva appunto che questa qui non è stata ancora, nessuno l'ha mai ascoltata. Le altre le ha pubblicate? No, le ho fatte girare un po' così nel nostro circuito, purtroppo non ho trovato mai un'etichetta discografica. Questo è peccato, forse non mi sono nemmeno prodigato per cercarlo, sai, noi abbiamo questo che tante volte quando troviamo delle difficoltà ci arrendiamo. Lasciamo lì, dice, vabbè, sì. Insomma, sarà il destino. Ma questo forse è un, come posso, non un errore magari, ma è un qualcosa che non depone, no, nel senso, no, a favore degli sforzi che sono, no, stati fatti in precedenza. È un peccato, quindi occorre, è un peccato, sì, un'ulteriore forse fase, sì, perché sai, forse si è talmente, si lavora tantissimo, fa una canzone, si lavora tantissimo, immagino. E poi si pensa che invece da lì cominci, quando tu hai fatto il lavoro è lì che devi iniziare un altro, esatto, che è quello di promozione, quello di marketing, quello di tutto quanto, sì, è effettivamente è così. Comunque questa qui guarda che veramente potrebbe essere decisamente alla cosa, proprio di... E anche quella in inglese di prima, sì, sì, decisamente quello, so, questo stile pop che sì, è proprio easy listening, come potremmo definire, ecco. Cioè ascolto facile, sereno, ascolto, prima parlavamo del jazz, alle volte il jazz è anche cervellotico, sì, jam session è tutta un'improvvisazione, sì, una appunto, cosa, appunto, però certo che quello delle big band, quello delle big band era una cosa straordinaria, e in effetti c'è sempre questa nostalgia per un periodo, certo, che era proprio l'età dell'oro, effettivamente. Le esperienze all'estero, mi dicevo, da un punto di vista della gratificazione e anche dalla della ricezione da parte degli ascoltatori. Sì. Beh, io sono stato diverse volte in America, che io amo follemente, insomma, l'America, anche perché sono un musicista, non può non, certo, non andare. Sì, ci sono stato appunto tre volte, insomma, così ho visto appunto le principali città. Lì effettivamente è veramente un altro mondo, soprattutto per la musica, per lo spettacolo. Music City, USA, Nashville, Tennessee, per esempio. Ah, è vero. Sì, se, appunto ogni città poi ha la sua problematica. Ho fatto un periodo abbastanza lungo in Sudafrica, peraltro perché avevo appunto un cugino che era nello Zimbabwe e poi in Sudafrica, e devo dire che ho conosciuto una bellissima realtà che non me l'aspettavo, che è l'età del post dominio inglese, no? Quindi si vede una cultura inglese anglosassone mista alla cultura locale che emerge, e quell'angloboe era in Sudafrica, sì, naturalmente. Sì, perché poi ero nel periodo in cui era l'inizio degli anni 90, in cui c'è stato il passaggio che poi è arrivato Madiba e compagnia. Comunque la musica africana è tutta diversa, cioè ha tutto un ritmo suo, che è anche bella. Certamente, sì, questo afro, questa componente, sì, perché anche il jazz poi in realtà non è solo praticamente, è un misto tra varie appunto culture, non solo quella afro, ma anche del caso, quella del delta del blues, Nashville. Dico anche The City That Care For God, come si chiamano, New Orleans, giusto? Cioè la città che non si cura di niente, eccetera, quella del cajou, di tutti. Nelle sue canzoni, è lei che suona il pianoforte o sono basi già fatte? No, il pianoforte lo suono io integralmente. Perfetto. No, ma tutti anche gli strumenti, anche gli altri strumenti le compongo io, insomma, gli arrangiamenti, ecco. E poi li sopra. Sì, ho capito io. E poi si fanno. E allora noi potremmo anche naturalmente portarci all'ultima canzone prima di concludere. Che peccato. Prima di concludere. Dai, è quello che diciamo ogni volta, perché sembra che non si sappia mai come riempire l'ora. In realtà, è passato velocissimo. In realtà è come l'ora di quello di Rudyard Kipling, che dice: se sei capace di riempire un'ora con 60 minuti degni di essere vissuti, allora è tutto più facile. Comunque più si va avanti con l'età e più si gusta un'ora. L'ultimo titolo facciamo, ascoltiamo il Carbonas. Torniamo alle origini. La spieghiamo. È sempre dedicata appunto così al Carbonas. Il Carbonas è una biscia che si trova nel la spieghiamo dopo. Allora ascoltiamo. Se vuole aver paura di una vista come questa, che te guarda, non si muove e si sconde in mezzo all'erba. Però adesso che il presari ha distrutto monti e mari, non che sei più il Carbonas, ma come miri del cas. Il Carbonas, è Carbonas, è Carbonas, viva viva il Carbonas, è Carbonas. Oggi un Carbonas, arriva il Carbonas, fa la vana Carbonas, Carbonas. Mi ricordo che una volta quando che se c'era c'è, non che c'era tanti skate, ma se c'era tutti bei. E non ho detto a te se voleva andare a tornei, ma i vecchiotti sempre qui, neanche fossimo putei. Lui voleva che se andasse né fai alto né fai basso, ma una volta si scappava e sentivo che si gava. Se le vede Carbonas che fai mezzo rovinasse, se ne strese anche il basso, fa tutto un fast. Se le ciappa il Carbonas, se le batte come un strass, se le lustra come un sass, se le rompe anche il nas. Ecco, questa era la canzone. Visto che insomma era dedicata al Carbonas, che è una biscia, no? Che come dicevamo prima, una biscia che ormai sta sparendo, perché nelle campagne è sempre di meno, ed è una biscia tipicamente veneta, chiudiamo con Gentilini. cosa diciamo? Allora, sai, io sono contento di essere stato qua da voi, è vero, e vi dico, sfattiamo, profitto di questa vostra no, tribuna, perché è una tribuna anche questa qua, per sfatare un mito che si era creato. Ci hanno, ma tante volte mi hanno detto che il sindaco, lei, è un po' razzista, ma non è vero, sai, non è vero per niente. Perché, perché io dico che sono invece tollerante. Sì, siamo tutti uguali, sia che vengo da Treviso, da Conegliano, da Montebelluna, siamo tutti quanti uguali. Hai capito? Benissimo, benissimo, bello, bello. Siamo molto tolleranti, devo dire. Caro Vinicio ci ha proprio tenuto una un'oretta di allegria, proprio. Una, veramente è stata una che bella trasmissione. Che ci serve proprio di questi tempi, questo, vogliamo dire. Si ha, si ha bisogno, è vero che si ha bisogno. Certo, esatto. Ecco. Comunque sarà nostro ospite in futuro, vero Antonio? Cioè, ecco. Ci contiamo. Ci contiamo, allora, già lo coinvolgiamo. Ecco, allora grazie mille. Grazie, grazie a voi tutti, a tutti quanti i radioascoltatori. E niente, allora, buon Natale a tutti, sì. Tanti auguri per le feste. Grazie a tutti. E ci risentiamo alla prossima volta. Ci risentiamo la prossima volta. Preparo qualche altra canzone. Certamente. Qualche invitazione, volentieri, volentieri. Benissimo. Antonio, grazie. Intende, tutto, ringraziamo, e... ringraziamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici per la pazienza con la quale ci seguono. No, penso che si siano divertiti, dai. Decisamente. Ecco, allora a tutti un saluto affettuoso e come sempre, ciao ciao. Ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.